Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, allora siete due facce di merda ovviamente. Vabbè, dai, iniziamo da Gasparri, David, iniziamo da Gasparri per adesso. Per forza, is necessary, come dicono gli inglesi. Ma che cosa ti ha fatto? Ti ha fatto incazzare? Non ho capito, ti ha fatto incazzare questo tweet di Gasparri che ha scritto nel weekend? Ho letto su un sito che Gasparri ha morso un cane. C'era scritto su un sito. Ho visto Gasparri ha morso un cane. Cioè Gasparri lo ha morso. L'ho letto su un sito, non si incazzi. Allora, Gasparri a un certo punto ha scritto a proposito di Vanessa e Greta, per cui non nutro alcuna simpatia personalmente, per Gasparri, come sapete. O per Vanessa e Greta? No, per Vanessa e Greta. Alcuna simpatia. Sempre dalla parte sbagliata devi stare. Sempre dalla parte sbagliata. Che cosa ha scritto, zio Gasparri? Sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo. Allora, bisogna spiegare, anche se molti di voi lo sanno, e per chi non lo sa, lo spiego. C'è da chiudere la Claire, chiudere tutto. Chiudere subito. Allora, il punto è uscita una notizia falsa, finta su un sito. In cui si diceva che una delle ragazze di fronte al giudice avrebbe detto: non siamo state violentate, però abbiamo fatto sesso, ho fatto sesso consenziente con i nostri rapitori. Era una bufala clamorosa. Gasparri ci si è buttato, anche se ha messo la cosa col punto interrogativo. Comunque, certo, non è stata una cosa elegante, tant'è che ha chiesto scusa, mi sembra, oggi al Senato. Sentiamo un po'. Ovviamente, se qualcuno si è offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda, cito quello che ha detto letteralmente la senatrice De Petris, perché di questo si è trattato, rigirare una domanda, mi scuso con chi si è ritenuto offeso. Beh, insomma, non è che si è proprio scusato Gasparri, Cioè, la cosa che sorprende di più è che il vicepresidente del Senato reagisca tempo 30 secondi a una notizia così grave, così importante come un presunto rapporto sessuale tra Vanessa e Greta, una delle due, non so adesso come era scritta la cosa, risponda proprio immediatamente a una cosa che bisogna verificare, come minimo bisogna verificare, no? Vabbè, comunque. Sentiamo Mughini su Gasparri, però è mugolo, sentiamo. Io ritengo che il vicepresidente del Senato sia uscito dall'onore umano con quel tweet. Questo per essere chiaro, uscito dall'onore umano. Questo è Gasparri, però, caro Parenzo, si sono sapute delle cose, no, amici miei. Non c'è niente da aggiungere. Nel weekend si sono sapute delle cose su queste due ragazze. Beh, non solo confermano tutti i miei dubbi, hanno confermato tutti i miei dubbi, ma peggio ancora. Allora, primo, non sono andate lì a fare beneficenza per i bambini, ad aiutare i bambini, a fare solidarietà per i bambini, manco per niente. Sono andate lì per aiutare con dei kit di sopravvivenza una delle parti in conflitto, che in quel momento non era infiltrata dagli estremisti islamici, ma era comunque una delle parti in conflitto, cioè i cosiddetti nemici di Assad. Primo. Appoggiati anche dagli americani. Sì, vabbè, ma lascia perdere, queste sono altre cose. Due. Sono finiti in un gioco più grande di loro, dunque non c'è niente i bambini e la solidarietà, nulla, niente, zero. sono finite in un gioco enorme, in un gioco più grande di loro. E noi abbiamo pagato. Vabbè, insomma. La cosa più incredibile è che i carabinieri, i ROS, sapevano tutto, perché erano state intercettate le signorine, no? Insieme ai siriani in Italia. Io non capisco perché i carabinieri, lo dico con grande affetto, con grande vicinanza ai signori carabinieri, ai capi dei carabinieri, non hanno fatto due telefonate alla famiglia, al padre, alla madre, a qualcuno, dicendo: scusate, secondo noi, siccome erano intercettate e sapevano quello che stavano facendo, secondo noi stanno un po' esagerando, non è il caso di mandarle in Siria, no? Non è il caso che badano in Siria, bloccate. Ma i carabinieri hanno le badanti, però. No, ho capito, però una telefonatina si può anche quelle fare. Quelle due no? Sono due maggiorenni che hanno scelto di andare lì, è discutibile quel che hanno fatto, ma la questione rimane aperta, rimane una sola. Lo Stato italiano deve garantire la vita dei propri cittadini anche quando sono non all'estero? Sempre, non risposta sempre, non sì. A tutti i costi. E non questo a tutti ha fatto costi. Il nostro governo, queste hanno fatto le vostre forze di intelligence. Andiamo avanti. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? No, per carità. Ah, questo è così. Vicenda Cofferati. A parte questo che Cofferati dovrebbe essere più presente al Parlamento europeo, mi segnalano che è presente a poco più del 50% delle sedute al Parlamento europeo. Adesso non sarà un fannullone, uno scansafatiche, come dice oggi il giornale, un assenteista da 20.000 euro al mese, perché sappiamo che al Parlamento europeo le presenze alle votazioni, eccetera, eccetera, però quelle contano alla fine, e lui è tra gli ultimi, non è tra i primi, è tra gli ultimi, signor Cofferati, al Parlamento europeo, e alcune cose bisogna dirle. In una situazione di questa natura, per rispetto ai cittadini che mi hanno votato, alle mie convinzioni, ad una parte importante della mia vita, in un partito che non dice nulla di fronte a fatti di questo genere, io non posso più restare. La cosa più incredibile, secondo me, è che Cofferati parla di fascisti. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa, no? Uno se la piglia con i fascisti, fantomatici fascisti che avrebbero votato alle primarie del Partito Democratico, che non siano state organizzate perfettamente, non c'è dubbio. Che alcune truppe cammellate legate al centrodestra abbiano votato, non c'è dubbio. Però pure Cofferati fa parte del PD, poteva aiutare all'organizzazione, a migliorare l'organizzazione delle primarie. Comunque, se n'è andato dal PD, vedremo quali saranno le conseguenze anche sull'elezione del Presidente della Repubblica. Ma ti pare possibile, David, che un prete accusato di pedofilia va al famoso convegno cosiddetto anti-gay sulla famiglia tradizionale organizzato a Milano? No. La cosa più assurda con il logo della regione Lombardia, come sì, hai ma detto. La cosa più incredibile è che questo prete, Don Inzoli, secondo me dovrebbe stare come minimo recluso da qualche parte, perché se è vero che è stato redarguito e anche messo a vita privata dalla Chiesa perché per evidenti atti di pedofilia, non capisco come ancora sia in circolazione. Cioè, è ancora in circolazione questo prete. La cosa pazzesca è questa: è ancora in circolazione e va ai convegni e vabbè, poi vedremo chi e come gli hanno dato il permesso di andare. Ma la cosa più incredibile è che è in circolazione. Cioè, c'è un'inchiesta avviata, pare, della procura non so dove di Cremona per 40 casi di pedofilia in non so quanti anni. Sì, sono d'accordissimo con te. Ma questo è in libertà. C'è uno accusato di pedofilia, cioè di avere violentato. Ma a voi piace un mondo così? A voi piace un mondo così? In cui un prete accusato di essere un pedofilo va a un convegno sulla famiglia con il logo della regione Lombardia? A voi piace un mondo così? Beh, a me. Vladimir Luxuria con noi. Ciao, Vladimir. Ciao ragazzi! Come stai, cara? Bene, grazie. Senti, grazie, ma bene. I preti che vanno ai convegni, come hai visto questo prete, il volto di questo prete accanto ai papaveri della regione Lombardia, lì, l'assessore, il presidente, tutto, prete pedofilo. Ma prete pedofilo non è che lo diciamo noi accusando la Chiesa, no, lo dice la Chiesa stessa, caro appunto. Vladimir, no? Ma io dico subito che un sacerdote che ne approfitta della sua tonaca, del ruolo che riveste per fare abusi sui minori che magari si sentono in soggezione perché è un prete, e quindi poiché è un prete sembra quasi un peccato poi dopo andare contro il prete, no? E che magari si fanno anche delle remore rispetto al fatto poi di dirlo a casa, e magari ci sono anche delle famiglie in cui si dice no, è meglio che non si sa il prete, le cose eccetera. Ma te è mai capitato qualche prete? No, per fortuna no, però io mi ricordo quando eravamo ragazzi che si sentiva spesso di sacerdoti che purtroppo, lo dico purtroppo, che ne approfittavano dei ragazzi che studiavano catechismo, dei ragazzi che facevano chierichetti, quindi è una cosa che si sa già da un po' di tempo. E tra l'altro questo era un prete che era stato condannato dallo stesso Vaticano a 5 anni. Ah no, ma sì, l'abbiamo detto. Cioè, quindi insomma l'idea che vada in un convegno organizzato tra gli altri da associazioni che nel loro statuto propongono la terapia per i gay mi sembra un po' contraddittorio, ecco, diciamo una cosa. No, tra l'altro la chiesa aveva detto a questo prete di fare anche un giretto da qualche terapeuta. Ci fermiamo un attimo per il traffico, adesso torniamo. Volete sapere, Vladimir Luxuria e David Parenzo, cosa, al di là della presenza di questo prete accusato di pedofilia, la cosa che mi sembra più incredibile è che sia Mario Dinolfi da noi venerdì che qualcuno a questo convegno di sabato a Milano ha sostenuto una cosa come se fosse la cosa più scontata del mondo, cioè dire il no al preservativo. Cioè è questo che mi fa impazzire a me. Sì. Uno può avere tutte le idee del mondo, la famiglia tradizionale, quello che volete, no al matrimonio gay, va tutto bene, per carità, io sono, come sapete, a favore del matrimonio, a favore dell'adozione, quello che volete. Ma perché uno deve essere contro il preservativo? Cioè una cosa di malattia. Cioè perché uno deve di follia, direi. Ma non c'è motivo alcuno, eppure c'è qualcuno che è ancora contro l'uso del preservativo, contro l'uso del condomo, che è la cosa più naturale del mondo per salvare le vite umane, per non prendersi le malattie, per non rimanere incinta. Eppure c'è ancora qualcuno oggi che dice che bisogna fare campagna contro il preservativo. Sentiamo prima di Dinolfi cosa ha detto di noi, da noi qua. No, io sono contrario all'uso dei preservativi. Tanto abbassano il livello del piacere, abbassano drammaticamente il livello del piacere. Poi dovessi fermare lì in quel momento, scusate, stop pubblicità, devo montare il condom. No, dai, fidatevi. Vladimir, che dici? Tu lo usi? Allora, io lo uso e nonostante il fatto che io lo uso faccio anche dei controlli, comunque. E l'ultima volta che sono andata, tutto bene, mi hanno detto che c'è un aumento incredibile di sieropositività tra i giovanissimi. Perché? Perché, diciamo, quelli della nostra generazione almeno hanno avuto quella campagna inizio, no? Ti ricordi, si parla di preservativo. I più giovani se ne fottono. Hai notato che ultimamente il ministro della salute, ricordo quello la Lorenzin, immagino, insomma, comunque che nessuno ne parla più, come se l'AIDS fosse sparito, non esiste più. E in più, in questo silenzio dove non si fa campagna, dobbiamo sentire anche Mario Dinolfi che dice che il preservativo toglie piacere, quindi fidatevi. Ragazzi, Mario Dinolfi deve sentire sulla coscienza il ragazzo che magari ha sentito queste dichiarazioni, che ne so, può pure essere, dice, l'ha detto pure Mario Dinolfi, ma non lo usiamo, nel caso venga. Perché ragazzi, guarda che la cosa è seria, perché poi un ragazzo di 20 anni che si scopre sieropositivo, magari, cioè, se si scopre sieropositivo... Cioè se la deve prendere con la Dinolfi, dici? No, non dico che state a prendere con la Dinolfi, ma dobbiamo fare invece informazioni e dire che si può fare sesso e il sesso può essere piacevole con il preservativo. Vabbè, quello è scontato, ragazzi. All'inizio, quando dicevi che bisogna usare il preservativo, molti dicevano la stessa cosa. Però voglio, invece, noi abbiamo cercato di dare al fatto proprio di infilare il preservativo la stessa carica erotica di una donna che si sfila magari collant. Cioè, abbiamo cercato di rendere anche piacevole il fatto di mettere il preservativo. Adesso non voglio andare proprio scusami, ogni tanto ho queste cadute di stile, lo so, Vladimir, lo sai che sono un po' così, ma tu ogni tanto lo usi il preservativo o no, per curiosità? Ma io lo uso il preservativo. Tu lo usi? Io lo uso il preservativo. No, che ne so, pensavo che magari fossi solamente passivo, che ne so, cioè... Ma io lo uso nel rapporto sessuale. Ah, vabbè. lo usi o lo fai usare? Ma che domani è benvenuto in mente, in questo detto. Caso ti faccio una battuta scema, più che attivo passivo, in questi casi meglio essere riflessivi e quindi mettersi il preservativo comunque quale ruolo si possa ricoprire. Ogni tanto te lo metti, tesoro mio, io no, sono ma giusto. Una donna dedicata che si dedica anche all'uomo, al piacere, quindi in tutti i sensi. No, ma quello che uno vuole, i piaceri altrui. Ma brava, sì, così è vero. Dunque è così, e ovviamente bisogna usare il preservativo. Ma ragazzi, ma state scherzando? Ma da questo convegno la signora Costanza Miliano, che è una giornalista di Rai 3, per carità, va benissimo, signora Costanza, cioè, quella che scrisse il libro, quella che ha scritto il libro sulla sottomissione, eccetera, sì. Ha detto che è editorialista del quotidiano La Croce del signor Di Nolfi, ha detto, no? Che la contraccezione è un falso mito del progresso. Vabbè, sentiamo. La contraccezione è un falso mito del progresso. Vabbè, ma ragazzi, ma ho capito, ma è una cosa pazzesca. Ma è tutto finito. Io sul preservativo non transigo. Io, uno può avere tutte le idee del mondo. Prima fila, può essere Maroni. Contro i froci, contro i gay. Scusa, Giuseppe, ma perché allora non va fino in fondo Maria Di Nolfi e non dice anche che è contrario al divorzio? Forse perché non gli conviene. No, ma sarà contrario. Personale? No, so. Sì, ma sarà contrario anche in teoria. Lui si sente anche peccatore. Perché dice contrario. Io sono peccatore. Dice io sono un peccatore. Nessuno è perfetto, siamo tutti peccatori. Cioè, ma tu come lo consideri a Di Nolfi? Una sorta di fascista, un pazzo? No, una... ma io no, figurati, io non uso mai questi termini, quelli che sono i termini campi di concentramento. No, io la Russa ha dato del culattone a quel ragazzo che è andato a parlare al convegno, signore La Russa. Sì, l'ho sentito, vabbè. La Russa, se... io dico sempre che l'insulto qualifica sempre più chi lo fa e non chi lo riceve. Appunto, il linguaggio cristiano di questo convegno, in cui un ragazzo, poi tra l'altro, sì, la domanda che ha fatto sto ragazzo è: vi siete mai chiesti se i vostri figli possano essere omosessuali? Io ho fatto tanti convegni, Giuseppe, presentazioni di libri, mi è capitato anche qualcuno che mi ha contestato, gli ho sempre dato la libertà di parola e gli ho risposto, perché se fare i convegni solo tra noi che la pensiamo tutti nella stessa maniera, sì, però, ma sai che palle. Sì, però è vero che c'è il diritto, Vladimir, di fare il convegno e di organizzarlo come uno vuole, cioè se non è previsto l'intervento di uno si può anche aspettare che arrivino dei signori e a un certo punto lo pigliano e lo portano fuori. Vabbè, cioè, non è che l'hanno aggredito, ma le parole ad un convegno in cui si parlava di amore e di famiglia. Vabbè, questa, ragazzi, è la contraddizione. Sì, però uno ha il diritto, cioè, di organizzare era un convegno in cui si parlava di amore, di famiglia. No, io su questo non sono d'accordo. Allora, io intanto, Maria Di Nolfi è quel signore che tanto parli, appunto, il diritto, la libertà di opinione, di libera espressione. Maria Di Nolfi è stato quello che, quando io sono stata invitata la TV 2000, la TV della CEI, sì, ha fatto di tutto. Social bombing, hai invaso con le email, facendo proprio degli appelli per evitare che io andassi lì. Senti, tanto, ma se fosse l'ultimo, direttore ha detto che poi mi avrebbe richiamato e non invece richiamato. Poi non ce l'ho più fatto. Senti, Vladimir, ma se tu fossi l'ultimo uomo sulla terra, cioè se Di Nolfi fosse l'ultimo uomo sulla terra, ci andresti o no? Non sarei proprio il migliore esempio di uomo con Maria Di Nolfi, no? Con la Di Nolfi, l'ultimo uomo. Ultimo uomo, l'umanità si sta per estinguere. Allora, a questo punto mi dedico alla castità, così faccio felice pure le alte gerarchie ecclesiastiche. Meglio la castità di Di Nolfi. Ma si attrezza da sola, scusa, ma che bisogno c'è di meglio la castità da solo. No, guarda, io dico solo una cosa: ognuno è libero di fare figura di quello che vuole, dire quello che vuole, siamo una democrazia, eccetera. Mi è sembrato davvero assurdo mettere il logo dell'Expo su questo convegno. Ma che cavolo c'entra l'Expo, che si dedica al cibo, di nutrire il pianeta? È stata, secondo me, una strumentalizzazione, una voglia di provocare, di fare pubblicità. È anche vero che chi se ne frega della cosa, che chi Non so, però l'Expo, ragazzi, Milano è una grande città, una città europea, questi sono dei fondamentalisti, cioè perché devono mettere l'Expo come vetrina internazionale dell'omofobia e appioppare a Milano l'idea che i milanesi siano come loro? Senti, ma lo vorresti un presidente? Ma io fossi un omosessuale, non andrei lì. Un presidente della Repubblica gay, lo vorresti? Io vorrei un presidente della Repubblica trans, che faccia onore alla nostra. Quello è scontato. Per me l'orientamento sessuale è assolutamente diverso. Ma prima o poi ci sarà un trans? O no? Tutto è possibile. Se 30 anni fa qualcuno ti avesse detto un giorno ci sarà una trans deputata, tu avresti detto e dunque prima o poi ci sarà un presidente trans? E perché no? Magari come fase intermedia prima di una donna, perché sai, una donna. Un attimo. Pubblicità, fra poco torniamo dopo il GR. Siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Comunque, ragazzi, deve venire fuori il nome di chi ha fatto entrare il prete Pedofilo non lo dico io, lo dice la Chiesa, eh? Lo dice la Chiesa stessa. Il prete pedofilo, che non si capisce perché non sia ai ceppi o perché non sia rinchiuso da qualche parte invece di andare a presenziare i convegni, non sia ospite di convegni, deve uscire fuori il nome, dicevo, di chi lo ha fatto entrare, permesso o non permesso. Si è parlato dell'assessore alla Regione Lombardia, Cattaneo, di Comunione e Liberazione, e questo prete, Don Inzoli, è stato a lungo tra i principali confessori, chiamiamo così, preti di riferimento di Comunione e Liberazione. Che esca fuori la persona che l'ha accompagnato, così sappiamo che questa persona ha portato un prete pedofilo in mezzo a un convegno sulla famiglia, cosa incredibile, sulla famiglia, capito? Convegno sulla famiglia contro i gay, hanno portato un prete pedofilo che toccava il culo o peggio ai ragazzini, ti rendi conto o no? Dai, ma mi rendo conto, e come? Ma che è bell'ambiente? Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Il mondo così fa cagare. Ma quel mondo così fa cagare. Vabbè. Parliamo di puttane. La tassazione della prostituzione. Salvini. Dal punto di vista economico, assolutamente. No. È in macchina. Sì, quindi, ma più tardi in macchina, signor Squinzi. Più tardi, adesso possiamo. No, magari accende improvvisamente in ufficio così. E dice parliamo di puttane. Fammi distrarre due minuti. Sì. Vediamo un po' com'è la situazione lì, i mercati. Gira, tac. E sente, parliamo di puttane. No, esatto. Oggi, stiamo parlando di prostituzione. Comincia di una a battere così, no? Sulla radio. Sì, sì. Cos'è? Un problema di frequenza, forse? No, proprio quella. No, radio invece 24. Non è un problema di frequenza. No. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Eccoti servito, amico mio. Salvini ha ribadito da Fazio che vuole tassare la prostituzione. Per questo siamo tutti d'accordo. Questo. Sentiamo. E se ne vuole aggiungere due, un altro pallino fisso mio è la regolamentazione e tassazione della prostituzione come avviene in altri paesi civili d'Europa e porta a casa altri 2 miliardi di euro. Ce le dici? Toglie le prostitute dalle strade e gli fa pagare le tasse come pagano le tasse tutti gli altri lavoratori italiani. Sì. Senti, vabbè, questa qua è la teoria di Salvini, ormai insomma abbastanza, la conosciamo. E Fazio, il conduttore, senti come la pensa come te, Parenzo, senti. Non mi stupisce, eh? L'auspicio sarebbe che veramente insomma, è un lavoro il più infame e degradante che si possa fare per una donna, insomma, diciamo che l'auspicio sarebbe, anziché regolamentarla, cercare di risolvere il problema, insomma, che non mettere nessuno in quelle condizioni. Non è una roba di sinistra, sì, è una roba. Nel migliore dei mondi possibili, no, sì. Anche... Intanto lo tolgo alle mafie e lo regolarizzo, lo certifico. Lo sanifico e lo metto al chiuso e non in mezzo a una strada. Beh, insomma, capito Fazio che dice: beh, certo, bisognerebbe eliminare questo problema. Eliminare il problema. No, ma pone la stessa questione che ti ho detto io mille volte, cioè che laddove c'è lo sfruttamento va combattuto, ovviamente. No? Ma come dai? Attenzione, fermi tutti. In collegamento dagli Stati Uniti, on tour in America. È andato anche in America a propagandare il suo verbo, a diffondere il suo verbo, urbi e torbi. A cantare la sua meravigliosa canzone che forse andrà a Sanremo, il senatore Antonio Razzi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a senti, tutti. Senti, Anto, senti. Grande tour in America, Razzi on tour, ti trovi al Gran Caffè dell'Aquila a Filadelfia. Fammi salutare Razzi, che dicono che è arrabbiato con me, ma non capisco perché. Veramente un bel Gran Caffè, è veramente è un fiero all'occhiello perché ricorda l'Aquila, Piazza Duomo, e poi c'è l'imprenditore che è Michele Morelli, che proprio viene dal disastro dell'Aquila perché era proprietario del Gran Caffè proprio sul corso dell'Aquila. Ma che stai a fare tu in America, scusami Antò? Ma io sono venuto a inaugurarlo. Ma come, sta succedendo un casino? Chiedevo una presenza di un parlamentare e io mi sono offerto, da abruzzese mi sono offerto a inaugurare un caffè. A inaugurare un caffè. È un segno di amicizia che noi, almeno il Senato, è vicino agli italiani all'estero che si danno da fare per portare, per pubblicizzare la nostra nazione. Scusami un attimo, sei a spese tue o a spese degli italiani lì in America? No, hai pagato gli acquisti che pago tutto io. A me non mi ha pagato niente nessuno, non ti preoccupare. E io pago, come diceva Totò. Io lo faccio per amor di padre anch'io, perché essendo stato emigrante capisco loro che sono emigrate e che stanno conquistando il nostro vino, tutti i come fai italiana in questi giorni in America? Do you speak English o no? Va bene anche con lo spagnolo mio, col mio spagnolo va bene pure. Cioè come con lo spagnolo, stanno, scusa. Ma dopo ci sono un sacco di abruzzesi. Vabbè, ho capito, ma a New York come fai? Capiscono tutti. A New York come fai in albergo? Ma in albergo quelle quattro parole lo so. Cioè tipo che sai? Ma che deve dire? Devo solo dire a room e basta. Non un room che si beve. la camera. Ma è vero che sei incazzato con Parenzo? No. Sì. No, queste per me è da scomparire dalla vita. Ha finito, perché io non sono uno che porta rancore, porta quelle, ma da lui non me l'aspettavo. Ma sai cosa? Va a fare le cose, va a fare l'Ufregni, va a fare l'Ufregni vicino a Bonolis. Ma che cazzo da pezzi da minuti qui? Ma amico mio, ma ho detto le stesse cose che dicevo. Ma che va a lavorare? È che non rompere i coglioni, va a lavorare, capito? Ma che ha fatto? Scusa, non mi ricordo che ha fatto. Aspetta, fammi battagliare con Razzi. Io non me lo ricordo e non me lo voglio ricordare più. Ma guarda che ho detto esattamente le stesse cose che ti dico alla radio. Non voglio sentire niente. Io non vado mai a criticare in televisione un amico. Almeno se ma che è un amico, ma è uno sketch. Ma che cazzo di scherzo? Non scherzo, non cazzo. Ma scusa, eri vestito come un supereroe, poi lo dici a me. O quelle che mi stanno ascoltando, mi scuso, ma io purtroppo... Sei fatto così. Quello che penso lo dico, non lo mando a dire a nessuno. Eri vestito, se ti ricordi, eri vestito come un supereroe comunque, in un programma comico. E questo non è... Non mi puoi fare con altri. Questo è il senatore che noi abbiamo, vedi? Com'è? Io devo dire, questi giornalisti che noi abbiamo. Ma scusami, sono le cose che ti dico ogni giorno quando vieni alla radio, no? È uguale. Lì eri in un contesto comico, vestito da supereroe. Giuseppe. Ti passo l'imprenditore. No, aspetta, voglio chiarire questa cosa qua. Allora, io non ho capito. Parenzo, davanti a tutta l'Italia, ha detto che tu sostanzialmente non sei un senatore degno. Ma come alla radio? Rispetto ad altri politici. È per questo che sei incazzato. Non c'era bisogno lì davanti a Bonolis di fare questa piazzata davanti a tutta Italia. Uno è amico, oppure non è amico, abbi pazienza. Per me lui rimane sempre un amico. Dopodiché io rido e scherzo su di lui come ho sempre fatto. Perché devo cambiare abito? Fallo parlare. No, ma io sto spiegando. Ma un senso di rispetto non solo per l'amicizia, ma anche per il ruolo che ricopre. Ricopre chi? Non va bene. Ma scusami, Razzi, ragiona un secondo. Quelle cose lì me lo devi dire quando sono presente. Non si parla mai di uno, io non ma eri presente, eri registrato lì, non mi ricordo neanche dove, vestito da supereroe. Che facevi, sei presente? Ero registrato, però stavi vedendo la e te credo. Ma scusami Antonio, ti dico le stesse cose che diciamo in radio. Sto spiegando. L'amicizia nei tuoi confronti per me rimane uguale. Che poi uno non possa scherzare sul fatto che c'ha un senatore della Repubblica vestito come un supereroe, amico mio, ma di che parliamo? Su. Adesso capisco quando chiamano per telefono quelle che ti ma ero vestito io da supereroe o ero vestito tu? Scusami, ma ero vestito io da supereroe o tu? È incazzato, dai. È capitato io. Allora, Antonio, aspetta un attimo, c'è la pubblicità, però mi devi dire una cosa. Che vuoi dire a Brunetta che critica Berlusconi, poi Soggia non pare che non abbiano fatto pace? Digli qualcosa, amico mio, te lo dico a Brunetta. Ma non credo, può darsi che sarà stata qualche battuta, sai, molte volte Brunetta è un tipo che si scalda subito, ma sicuramente ritornerà tranquillo, capito? Ma diglielo, contro Berlusconi, non puoi andare contro Berlusconi. No, ma assolutamente, contro Berlusconi non si può andare, perché solo lui è il genio che abbiamo in questo momento nella terra. Ma scusami, per cui Berlusconi, se ti dice di votare un nome per il Quirinale, tu lo voti? Se me lo dici Berlusconi, e lui è il genio, lui che sa chi mettiamo. Cioè, per cui chiunque ti dice di votare, tu lo voti. Beh, ci mancherebbe. Eh no, e che ne so, magari che ne so. Ma io sono fedele non solo a lui, ma sono fedele al partito. No, ho capito, d'accordo, però se Berlusconi ti dice... Io non ho il partito mio. No, però ho capito, ma se Berlusconi ti dice, che ne so, votiamo... Anche se dovesse votare Totò Riina, tu gli dici sì, voto Totò Riina. Beh, se l'ha deciso lui è il genio. Ma come? Se diciamo quello fa bene le cose per l'Italia. Riina. No, però se uno dice, se Berlusconi... così è, Razzi, chi è che sta chiamando? Chi è che chiama? Sono in trasmissione, chi è che chiama? Mi chiamano. Mandi in onda tutto. Comunque, la cosa che ha detto Razzi è questa, è molto semplice, senatore Razzi. Qualsiasi nome mi dà Berlusconi, io lo voto, giusto? Ma io sono fedele. Okay, ho capito. Scusa, tu fedele, se uno è fedele, se uno è fedele con sua moglie, deve rimanere fedele, non è che è ogni giorno che ha mia moglie. Vabbè, insomma, ho capito, ma Berlusconi non è che è tua moglie, però è come se fosse. No, ho capito, però è il mio idolo. Ok, ho capito. Vabbè, fermi tutti, fermi. Voglio dire a Parenzo che intanto Razzi era vestito da Elvis e non da supereroe. Sì, eh? No, vabbè, da Elvis. Chiedo scusa. Da Elvis. Chiedo scusa. Sì. Era travestito da Elvis. Da sì. Elvis. Cioè, se l'attore. E poi ho fatto la battuta e si arrabbia. Vabbè. Non è che si arrabbia. Ero io cancellato dalla sua esistenza. Me ne farò una ragione. Mi dispiace perché il mio era non un attacco alla persona. Beh, era un divertito. Gravissimo. Era un divertito attacco politico. Ma è normale. Ma adesso basta però. Ma se ecco. Risulta normale lui che si veste da Elvis. Basta. Non è possibile che venga messo io nella croce che non è il quotidiano fondato dal signor Adinolfi. Vengo additato io come pazzo quando un senatore della Repubblica si veste da Elvis in un programma per giunta comico. Basta. Beh, scusa, questo mi avete fatto incazzare adesso. Ma questo non è possibile. Non è normale. E io sono quello anormale poi. Ma che siete matti all'inversione delle cose. Invertite le cose. Oh, che scandalo, si è arrabbiato. Stavo scherzando. Era un programma comico. Un senatore della Repubblica si traveste da Elvis e poi lo stronzo sono io. Ma siete pazzi voi, come sapete ormai. Ma Parenzo non facesse lo stronzo perché adesso mi hanno un altro. È in altro. Ha ragione, professore. Ma dai, ha ragione. Ma hai fatto un attacco gravissimo. Hai fatto un attacco gravissimo in un programma comico dove non è il caso di fare questo attacco. No, a una persona che ti considera un suo amico. Ma anche io lo considero un amico. Ma era un programma comico, non era porta a porta. È uguale, peggio. Porta a porta dovevi fare. A dirla tutta, però. Dimmi. No, perché sennò anche tu mi fai girare le quattro sfere celesti. Dimmi, altrimenti, dimmi, anche tu. Dimmi. Rimettiamo le cose in ordine. Programma comico, scherzi a parte. Conduce un signore che si chiama Bonolis. Ma è un programma c'entra? Dove fanno gli scherzi. Quel programma lì. Appunto. E l'hanno fatto anche a me con la tua. Con te complice. Improvvisamente in questo programma compare e poi lo stronzo un scherzo. Senatore della Repubblica. Ma uno scherzo gli hanno fatto. Accetta di vestirsi da Elvis e viene mandato per un giorno intero non so dove a vagare vestito da Elvis, un senatore della Repubblica. Io faccio una battuta e lo stronzo divento io. Ma voi siete pazzi completamente. Donato da Varese. Donato, vai. Pronto? Vai Donato, vai. Volevo dire a questo stronzo di come si chiama qua, Parenzo. Sì. Come sta a casa? Tutto bene? Non ha fatto una battuta. Ah, questo è il solito. Aspetta. Fammi sentire. Fai parlare Donato, cazzo. Donato, dai. Non ha fatto una battuta. Lui odia tutte le persone che sono di Forza Italia. No, io vorrei consigliare. Lo fai parlare, io vorrei consigliare a questa orribile testa di cazzo. Questo non è vero. No, mi saluti a casa. Fisicamente è bello. Lui deve attaccare, semmai. Giorgio Napolitano, no? Quel cornuto! Eccolo qua che si carica, senti come si carica. Vai, vai, vai. Carica la manovella. Eccolo. Quel cornuto miserabile che a noi non ha fatto altro che chiedere in questi 9 anni dobbiamo stringerci la cinghia. Un uomo di merda. Putrido, voglio andare in galera, ma lo voglio dire. Un uomo di merda, schifoso. Mentre gli italiani morivano, cosa ha fatto sto porco? Prende molto più di Obama. Che deve essere. Ha cambiato il dosaggio. Deve garantire 52 stati. Sto porco, 60 milioni. italiani, tutti gli islamici a seguito. No, no, ha cambiato il dosaggio, per forza. Lui si prenderebbe molto più d'Odama. Allora, tu devi attaccare Giorgio Napolitano perché è stato il peggiore. Tu devi cambiare il dosaggio della medicina. Porco che esiste. Vabbè, adesso però non ti caricare troppo su questa cosa. Io siccome che dosaggio, capito? Devi cambiare il dosaggio della medicina. Lascia stare Razzi, è una brava persona. Ha avuto la fortuna. Ma certo che è una brava persona, bravissima persona. Ma è una bravissima persona. Attacchi Amato, devi attaccare Giorgio Napolitano, devi attaccare tutte le persone di sinistra. Attaccati alla Flebo invece, perché col nuovo dosaggio, perché qui mi pare la situazione molto grave. Dice che devi farti un dosaggio con una Flebo di Sicalmani. Un dosaggio, bisogna attaccare. Ormai è pericoloso parlare di Giorgio Napolitano. Io dico che Giorgio Napolitano non è vivo per stare qui a fare lo spettacolo. È un assassino. Vabbè, adesso. Letteralmente. Ma perché? Un assassino. Perché un assassino? Qui voglio trovare una ragione. In questa roba qui voglio trovare una ragione. Ha ragione, l'ospedale è la ragione, matto, allora, dai, su. Allora, un presidente che rappresenta 60 milioni di italiani non può prendere più di Obama. È contro natura, contro ogni concezione. Un uomo che prende tutti quei soldi deve spararsi nelle tempie. Però mi sembra che stai un po' esagerando. No, mi sembra che sia uno psicolabile. No, mi sembra, francamente, Cruciani, ti chiedo scusa se provo a evidenziare che toglierei il mi sembra. Guarda, no, non credo affatto, figuriamoci. Il fatto che quest'uomo sia uscito fuori dalle palle e tutti quei cornuti comunisti, quei beceri comunisti che hanno rovinato questa Italia, stiano lì ad osannarlo, accarezzarlo, a vezzeggiarlo, quello è stato il peggior italiano della storia. Ma perché sei così avvelenato con il signor Napolitano? Sono avvelenato perché mi vergogno come un uomo abbia commesso 3 colpi di Stato. È stato artefice di con collaborazione di 3 colpi di Stato, una merda. Adesso non vorrei che arrivassero i carabinieri qui. Non vorrei... È nato parassito, vissuto da nababbo e che muore da uomo da osannare. Ma questo è matto completamente. Non vorrei, è normale anche lei. Non vorrei che... Attacca Giorgio Napolitano se hai il coraggio. Attacco. Il coraggio di che? Per me è stato il più grande presidente della Repubblica dopo Pertini, Ciampi. I migliori per me sono Pertini, Ciampi. Dietro 880.000 euro di benefit. Ma chi è questo? Tu attacca Razzi perché si piglia 5.000 euro al mese. Ti devi vergognare. Attacca Giorgio Napolitano, il tuo presidente. Attaccare decido io. Attacca lui. Tu devi attacca lui. Meglio. Vabbè, Donato, ho capito. Ciao, Donato, ciao. Marcello Catania. Sì, buonasera. Vai. A voi, tanti in ascolto. Bene, e io sto mettendo sul piatto della bilancia quanto può dire un personaggio come lei e quanto può dire un personaggio come Ratzinger. Sì. Se mi dovesse convincere Ratzinger o Razzi, non ho capito. Va bene, uno come lei non riuscirebbe a convincere nulla, nessuno, perché l'uso del preservativo 1991-2001 in Uganda è stato condotto un esperimento in cui è stato ridotto l'uso del preservativo Lancet, questa che ha fatto una cosa, e diminuisce le AIDS. È ritornato invece poi perché l'associazione dei medici ha detto che è l'unico metodo per contrastare la diffusione delle AIDS ed è aumentato in maniera esponenziale la... Sì, ci saranno stati altri motivi adesso, Marcello. Vabbè, lei sta sostenendo una cosa ridicola, cioè che senza l'uso del preservativo perché non ha merito in titolo per parlare, non è uno scienziato, per cui ma cosa c'entra lo scienziato? Lei riporta cazzate che sente di... E invece lei, professore, genio, maestro, lei riporta le sue, lei non quali sarebbe? Io ho detto quello che dice è ridicolo, non ho detto che lei è ridicolo. Poi se vuole glielo dico anche, non è che mi... Una persona intelligente non dico sue cose ridicole, per cui lei quando dice ridicolo a me dice ridicolo a quello che dico. Per cui sia zitto e stia tranquillo. Stia zitto, lo dice a casa sua, a sua moglie, a sua figlia. No, quando parla lei io parlo come mi pare perché qui decido io. Forse Marcello, forse... No, ma questa è a casa mia. Quando apre la porta alle persone. Lei non ha capito niente di come funziona qui. Lei non ha capito niente. niente. No, ma di come funziona qui lei non ha capito. Se vuole un'altra, se vuole un'altra, se vuole andare in un'altra casa, vada pure. Non riuscendo a convincere le persone con la forza dell'intelligenza. Ma forse non ha capito ancora, Marcello. Ma io non voglio, ma non voglio convincere nessuno. Ma non voglio capire, non voglio convincere nessuno. E lasci parlare. Io lascio parlare quando mi pare a me, chiaro? Quando pare a me, quando pare a me. Se a lei non piace questa trasmissione, il modo in cui si interviene, spegne la radio e non ci rompe i coglioni con, suo, con le sue cose, capito? C'è persone che portano la società verso il bene, cosa e c'è pazzesca, guarda. Persone che portano la società verso il male, lei è uno di questi. Vabbè, io porto la società verso il male, sì, è vero, sono un malvissuto, sono un malvissuto, porto la società verso il male. Dove la società può arrivare, e lei è uno di quelli che la rappresenta il peggio della società. E perché? E le piace veicolarlo questo, perché ci campa, perché lei è un poveraccio che ci campa su un questo. Un poveraccio che ci campa. Non riesce a fare altro, perché vabbè, Marcello, io non ho capito. Se non capisce, non è un problema. Non è un problema mio. No, ma infatti non no. Ce l'ha detto lei. Ma si dice che me non capisco e si dice, dice pure lei che non capisce. Oh, guarda che bella sta cosa. Va bene, ma non capisce nessuno. Dunque, e lei allora, è contrario all'uso del preservativo, giusto? Allora, il preservativo, sì, perché ci sono, vede, l'uomo ragiona con due teste. Lei è contrario. Sì, con due teste, per cui ci sono quelli che usano una, quelli che non usano altre e altri che usano tutte e due allo stesso modo. Sì. Per cui se invece si ragiona con la testa, ci sono persone. Ma guardi, cioè, lei dice no, seriamente si può fare a meno del preservativo, secondo lei? Ci sono ricerche scientifiche che lo dicono, non lo dico io. Si può fare a meno del preservativo. Ecco, il professor Marcello da Catania ci viene a dire che si può fare a meno del preservativo. Beh, amico mio, non aggiunge nulla alla discussione, ma ti prendi in giro. Ma ti prendi in giro? Vabbè, ma hai citato le tue ricerche, hai fatto bene. Vis-à-vis, superiore di me. Per cui non perché ma che me ne frega di incontrarti? Ma che me ne frega a me? E alzi la voce e mi prendi in giro, non ce la fai, caro. Non ce la fai, per cui è inutile che cerchi di provocare, aumenti l'audience, fai spettacolo, ma non è un modo bello di parlare. Non è un modo bello di parlare. Impara. Io ti lascio parlare, ti lascio parlare perché sei uno spettacolo da solo tu. Quello che dici è uno spettacolo. Per cui vai che sei uno spettacolo. Sei uno spettacolo meraviglioso. Sei uno spettacolo fantastico. Guarda, credimi, detto da te, non mi sposta, però siccome ci tengo che purtroppo quando una persona va in radio e dice qualche cosa si assume la responsabilità di quello che dice, poc'anzi il suo ospite, la signora, figuriamoci se non mi assumo la responsabilità di quello che dico. La signora Vladimiro stava dicendo che a chi è che diceva a Dinoffi si deve assumere la responsabilità che ogni persona che gli succede qualche cosa che non usa il preservativo è colpa sua, stava per dire una cosa di questa, si accosta dell'enormità della fesseria che stava dicendo e tornava. Ma ora so che c'entra questo. Vabbè, Marcello, ti abbraccio. Una persona quando dice amico mio, ma non è che decidi tu quanto intervieni, cioè non è che lo decidi tu i tempi dell'intervento, come, quando e perché. Decide il sottoscritto, il re assoluto di questa trasmissione insieme al signor Parenzo, comunque il re assoluto che decide tutto, modi, tempi e tutto. Non è che decidi tu, no, quando parlo io, no, decido io. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Una vecchia frase di Rino Formica, politico della Prima Repubblica. Vabbè, stai attento, mi scrive la segretaria del signor Cattaneo, che abbiamo evocato. Leggiamo in diretta il messaggino o no? Sì, no, io ho letto quello che riporta alcuni giornali. La cronaca che arriva, piomba in diretta sul mio cellulare alle 19:48. Dimmi. David Cattaneo non ha invitato né accreditato Inzoli, come abbiamo già smentito stamattina all'ANSA, AGI e Omni Milano. Ottimo, ciao. Stupendo. Infatti ho detto forse è entrato da solo, eccetera eccetera. Ma abbiamo con noi, beh, caro Parenzo, un amico della Zanzara, bisogna dirlo, perché l'abbiamo ospitato più volte. Molto bene. Zagrebelsky? No, ma che c'entra Zagrebelsky? Molto molto meglio. Meglio, non Zagrebelsky. Che poi sei fissato con sto Zagrebelsky? Ma che c'ha di così interessante sto Zagrebelsky? Ma è una cosa ininteressante. Vabbè, chi c'è? Scalfari ha invitato, Eugenio Scalfari. In diretta dalla sua casa in Liguria, Claudio Scaiola, buonasera. Molto bene, molto bene. Buonasera a voi. Come sta? Gli asparagi, come vanno gli asparagi, caro Scaiola? Gli asparagi, la stagione è finita, ci prepariamo alla prossima. Beh, allora ha un sacco di tempo, no? Ha un sacco di tempo libero. Adesso ho molto tempo. tempo libero, poi sono stato molto tempo a casa, sì, e quindi ho dato tutte le mie cure, per cui sarà una primavera splendente il mio orto. Beh, siamo veramente al top degli asparagi a casa Scaiola. Vogliamo ovviamente anche qui una cassetta, insomma, per quando saranno pronti. La cassetta è un po' troppo di asparagi, perché come è un po' troppo costosa. C'è il braccio corto. Però, ci vuole sempre il rovescio della medaglia. Ogni cosa va sfruttata come opportunità. Senta, allora Scaiola, io però la chiamo perché nei giorni scorsi, io non so se lei è ancora interessato alla politica, se è ancora appassionato, sì, nonostante tutte le sue vicende giudiziarie, nonostante il fatto che non è più in Parlamento, eccetera, eccetera. Però nei giorni scorsi ho... Attenzione, che le mie vicende giudiziarie comunque sia... sono finite per adesso in archiviazioni e assoluzioni, punto. Speriamo nel futuro. E lei come pensa di finire queste vicende giudiziarie? Con quale punteggio? Lei e, diciamo, e chi l'accusa? 6-0, mi piace 6-0, mi piace, cioè, lo scratch di tennis. Ah, lei è sicuro alla fine di vincere 6-0? 6-0, dice. Certo, perché meglio di me non lo sa nessuno. Sì, spero che lo capiscano anche quelli che devono decidere. Però bisogna dire una cosa, non è che Scaiola si sottrae ai processi, va lì, combatte a Reggio Calabria per la vicenda Patacena. Non perdo una battuta, perché è giusto essere così. Mai mollare. Mai, mai. Beh, tra lei e Berlusconi qualche differenza c'è, però, no? Berlusconi c'è 10 anni più di me, 11 anni più di me. Ah, questo, no? Dal punto di vista dell'approccio alla giustizia, dico, no? Diciamo che lui... ha cercato di fare qualche leggina prima, e ha stabilito una strategia diversa. Cioè, può darsi che la sua strategia abbia convinto me a farne una diversa. Però è diversa la strategia, cioè lui appunto. Strategia diversa. Cioè, lei si vuole difendere nel processo, mentre Berlusconi, diciamo, in qualche modo ha cercato di, no, i processi un po' di, no, di... Passaggio, ho già tanto da guardare me che non riesco francamente a pensare se siano giuste quelle degli altri. La mia, per carattere, è essere presente e guardare sempre fisso negli occhi. Scusi Scaiola, però io ripeto, l'ho chiamata perché sì, combatte come un leone. L'ho chiamata perché nei giorni scorsi ho sentito il suo nome essere pronunciato, non dico in vano perché non lo posso dire io ovviamente, però si è parlato di scaioliani, di Scaiola, come se lei governasse in qualche modo le primarie del centro-sinistra in Liguria, che è la sua regione. Se fosse così, una specie di, no, di ombra, i suoi voti, gli scaioliani diffusi in tutta la Liguria. Di longa manus, di Scaiola. Sì, scaioliani come se fossero una specie di nodi manipolo, che manipolo, fossero solo manipolo. Allora io la mia domanda è questa: primo, esistono gli scaioliani ancora? Beh, quello sì. Guardi, io credo, andando in giro e da quello che ricevo, di avere ancora tanta gente che mi stima. Bene. E di avere ancora tanto consenso, questo mi fa piacere. E lei ha detto e a qualcuno di... soprattutto vedo che comunque sia, qualunque cosa, mi tirano sempre a mezzo, quindi vuol dire che il mio nome non se l'è dimenticato ancora nessuno. E questo un po' le fa piacere, diciamo la verità. Ma certo che mi fa piacere, poi nel caso specifico sa com'è, non se la prenda, ma voi giornalisti poi siete un po' così veloci, diciamo. Ah, quello sì, avete però bisogno di scrivere il giornale per il giorno dopo, per cui nei giornali c'è scritto che io appoggiavo Cofferrati e dall'altra parte che io appoggiavo la Paita, quindi c'erano i due opposti. Per la verità, per la verità. Ma lei ha detto a qualcuno dei suoi amici, dei suoi elettori di votare per qualcuno, oppure era completamente indifferente chi vinceva le primarie del centro-sinistra? Ma le primarie del centro-sinistra dovrebbero essere dedicate a scegliere il candidato migliore del centro-sinistra. La verità è che i candidati del centro-sinistra in Liguria, ma mi pare l'abbiano fatto anche da altre parti d'Italia, invece che cercare il consenso nella loro area politica per decidere chi è quello che ha più consenso nella propria area, non gli interessa la vittoria dopo, che danno per scontata, quella in cui votano tutti gli elettori. Sì. Gli interessa avere la designazione a essere il candidato. Per cui in Liguria è successo che è successo? Il risultato è stato determinato da elettori che casomai alle prossime regionali voteranno diversamente, ma che sono stati invitati a votare per le elezioni primarie del PD chiedendo la cortesia per cercare di vincere. Cioè lei sta dicendo, ma questo chi l'ha fatto di più? La Paita? Perché sembra che l'abbia fatto di più la Paita, perché Cofferrati che protesta. La Paita è assessore in carica, è la candidata di Burlando. Burlando ha girato i comuni, ha il record dell'inaugurazione dei tombini e del rifacimento delle campanili in tutta la Liguria. Però siamo, tutti. Però siamo concreti, adesso c'è la pubblicità, poi torniamo. Cioè, secondo lei la Paita è andata a cercare, a chiedere i voti di altri elettorati, in particolare quelli di centrodestra? Può essere. Sì o no, ma secondo quello lei? Quello che mi dicono, credo di sì. Complimenti per il programma, vi seguo sempre, dalla mattina alla sera. Questa era Nino Frassica, siamo di nuovo in diretta. La Zanzara, 800 24 00 24, dalla sua casa in Liguria. Lo vedo particolarmente vispo, particolarmente in forma. Io sono riposato, sono deluso, non incazzato. Ma da chi? Deluso, ma da una chi? Cosa diversa. Ma da chi deluso? E cosa fa tutto il giorno? Da Berlusconi, da Forza Italia? Da chi? Ma lei lo conosce l'articolo 390? Della Costituzione, del codice, il codice penale della Costituzione. Ho capito, perché è deluso da che? Dal fatto che di dover stare ogni giorno. Che sia possibile applicare l'articolo 390, che significa tentativo di procurata in osservanza di pena. No, lo so, è una cosa che lascia delusione. Ho letto, non fa incazzare, fa deludere. Fa delude, delude il tipo di reato, cioè è meglio essere accusati di essere accusati di omicidio che di un reato del genere. Però è chiaro, no? Quello devo dire che ha ragione lei su questo. Quando io oggi ho riletto un po' di cose e ho letto l'accusa che le fanno sulla vicenda Matacena, che è quella di tentativo, me la sono pure appuntata, ho detto ma che cos'è questa roba? Tentativo, aspetta, me la sono appuntata, era lunghissima la cosa, era una cosa lunghissima. Tentativo dice meglio di procurata in osservanza di pena, me l'hanno dovuto ripetere 10 volte perché non lo sapevo cos'era. Ma però ho fatto un record, questo non lo sa. Qual è il record? Qual è l'unico caso nella storia della giurisprudenza italiana di questi 100 anni in cui ci sia stato un provvedimento restrittivo per questo reato. Vabbè, l'unico caso, ho fatto un record. All'inizio, all'inizio non era solo per quello, però per questo. Sempre per questo. No, le accuse volevano essere altre, però sono state sempre cancellate. Sì, no, quello sì. No, però la cosa incredibile è la cosa incredibile è che lei dice tutto il giorno meglio la chiarezza, scusa, di essere accusato di aver ammazzato qualcuno piuttosto che una cosa incomprensibile. Vabbè, guardi, lei non lo augura a nessuno, poi parliamo d'altro, lo augura a nessuno, ma quando ti arriva un provvedimento restrittivo e non sai di cosa si parla, non dico che sia peggio di altre cose, per carità, però non riesci a capire, non riuscire a capire, le assicuro che è molto difficile, punto. Senta, ma quanto ha fatto soffrire sua moglie con tutte le vicende che riguardano? Adesso lei mi ha messo in testa. Guardi, mia moglie è una donna intelligente, siccome io non potevo parlarle, si capisce dall'intervista che ha fatto 2 giorni dopo mia moglie che lei è una donna intelligente. Ma d'altra parte, sa, al di là di quello che... Ma è vero che lei ha detto l'ho fatto per amore, perché mi ero invaghito? No, non ho mai detto questo. Ma infatti ho letto dei titoli su questo, ma non è vero? Ma sai, i titoli, c'è scritto di tutto, dappertutto e di tutto. Per cui lei non è vero che si era invaghito dalla signora Matacena, lei? È vero o non è vero che si era invaghito? Guardi, io ho cercato nei limiti della correttezza, come sta emergendo, di verificare se una persona che era già arrestata e quindi non c'era una presenza di pena potesse avere l'asilo politico. Vabbè, qualche minchiata l'ha fatta, qualche leggerezza l'ha fatta. Può darsi che abbia fatto male a pensare di aiutare qualcuno. Ma non mi ha risposto però se era imbaghito veramente dalla signora Matacena. No, mai stato. Mai. No. Bene, vabbè, ma questa è una risposta. Allora, però parliamo di politica di nuovo. La questione è molto semplice. È questa. A lui piace Cofferati, secondo me. No, infatti è questo il punto. Cos'è di Cofferati? Io a Cofferati, io la Paita non la conosco, non l'ho mai vista. So insomma che è arrivata da poco e che è una persona di fiducia di Burlando. E Cofferati lo conosco relativamente, ma lo conosco. Cofferati io riconosco coerenza, è una persona coerente. Cioè, se lei era di centrosinistra andava a votare per Cofferati? No, io non vado a votare sicuramente per la sinistra, ma capisco e credo che in politica il trasformismo non sia una cosa buona. Credo che si debba sapere quando si vota per una persona cosa pensi e che idee abbia. E devo dire che in Cofferati sai cosa pensa e che idee abbia. E direi che anche quell'autorevolezza che se fosse mai potuto diventare presidente della Regione Liguria, in un tavolo romano Cofferati ha il physique du rôle. Penso che la Paita invece abbia giocato insieme a Burlando un'operazione trasformistica che non mi pare in un periodo in cui abbiamo bisogno di cambiamento vero, sia una cosa bella. Per cui Cofferati, quando dice, tornando alla questione dei voti di cui si parla, no? Perché Cofferati ha fatto delle accuse pazzesche, ha detto che hanno votato i fascisti, agenti di centrodestra, che sono state pagate delle persone, adesso lei non sa perché hanno votato i cinesi e tutto questo. Al di là di come sono state organizzate queste primarie, lei non so se ha un'idea su questo, bene, male, non, magari non sa nulla, ma non ha tutti i torti quando dice, anche da quello che ci ha detto prima lei, quando dice che molta gente di destra è stata portata dalla paita o spinta dalla paita a votare per lei, sì o no? Guarda, le posso dire una cosa che è curiosa. Io non so di cinesi, turchi, cingalesi, non lo so. Letto. Turchi napoletani, eccetera. Ecco, no, ho letto, posso immaginare. E quello che so e che sicuramente ha turbato è che, ad esempio, alcuni esponenti storici, prima del movimento sociale, poi della Giovane Italia, sì, poi della, come si chiamava, Alleanza Nazionale, sì, sono andati a votare e hanno fatto votare, inserendosi dentro le elezioni della sinistra per la paita. Sta roba è vera che è successa, insomma. Ci sono nomi, come poi gli elenchi ci sono. Ma questo ha cambiato, secondo lei? Sì, perché sui numeri piccoli si cambiano queste cose, sono importanti. Ma io penso che ci sia stato un certo... Ma vede, qui il problema di fondo è un altro, ma ste primarie sono una presa in giro. Le primarie o si fanno all'americana con tutte le regole americane, con gli elenchi dei votanti, sono un sistema che non funziona, no? Soprattutto a livello locale, devo dire, perché a livello nazionale sui grandi numeri diciamo che questo è peggio, ma anche le primarie sul livello nazionale si devono fare con gli elenchi precisi, ma si devono fare con gli iscritti che si devono fare l'anno prima, cioè l'anno prima uno si iscrive alle primarie, sì, l'anno dopo ci sono quelle elezioni, è così. E va a votare come in America, insomma, che non si può copiare alcune cosette e non copiare tutto, ma copiare tutte le regole, allora funziona, ma però pasticcio. Comunque, ragazzi, altro che abbandono della politica, che fa, ma ancora assolutamente protagonista, ancora combatte ancora. Ma a proposito, lei sta più con Brunetta o con Berlusconi? Dentro Forza Italia. Berlusconi mi ha telefonato dopo un anno a proposito, di silenzio, ecco, appunto, 3 giorni fa per farmi gli auguri di buon compleanno. Ah già. E Brunetta, lei è ancora arrabbiato con Berlusconi, però diciamo la verità, ancora un po' arrabbiato, dai, su, questo si può io dire. Io a Berlusconi ho detto quello che penso, e cioè che Forza Italia dov'è? Non esiste più. Ah, vedi, quindi è con Brunetta. Non si vede, non si sente. Non si coglie. Non c'è. Non e c'è. Poi ho detto anche un'altra cosa, che forse vi può anche incuriosire. Cioè? Io quando sono stato ristretto a Regina Coeli, sì, ho avuto la visita di una decina di parlamentari. Sì. Il primo è stato Bondi, sì, dopo 2 ore. Poi ho avuto una decina di parlamentari dei diversi partiti della sinistra, ma non ho mai visto nessun dirigente di Forza Italia. Brunetta compreso. Ma non è che non l'ho visto perché non lo vedevo, non è proprio venuto, Vabbè, perché quando uno va in disgrazia, tra virgolette, quando uno è, Però Scajola ci dice una cosa in più, ci sta dicendo, cioè che è proprio contrario anche all'anima stessa di Forza Italia, che una volta era garantista, questo lei ci dice in sostanza, no? Perché adesso io che è Scajola. Nato in questo partito con 3 concetti fondamentali. Il primo, quello che si va avanti per merito, con condizioni di partenza uguali, sì, e non con l'ecoturismo fasullo. Il secondo, con un'economia che possa essere effettivamente libera e che è tutto lecito salvo ciò che è proibito. La terza cosa, una giustizia giusta, e garantire tutti i cittadini con un processo giusto finché non va in giudicato. Dici, i primi a non aver applicato con lei questa cosa sono stati quelli del suo partito. Però la cosa, ma io ho l'impressione che anche i dati sondaggistici che ci portano così basso dipendano anche dal fatto che molti non si riconoscono più. Però scusi un attimo, ma lei mi sta dicendo dov'è Forza Italia? È troppo schiacciata su Renzi, cioè lei a Berlusconi che cosa ha detto su sto patto del Nazareno? Il patto del Nazareno lo condivido, perché è un interesse generale dell'Italia. Dunque va bene, ma il patto del Nazareno deve servire per le grandi riforme di cui questo paese ha bisogno. Ma Berlusconi gli interessa solamente... Non si può annullare nel patto del Nazareno facendo mancare agli elettori il nostro messaggio. E quello che, cioè, lei dice Forza Italia, ma tanto qual è il candidato, per esempio, della destra in Liguria? Chi è? Chi lo conosce? Guardi, è stato deciso ieri uno che si chiama Garaventa, però non sappiamo ancora se sarà Garaventa o il leghista Rixi. Appunto. Non si sa ancora. Non si sa ancora, una tristezza. Leggo i giornali su questo perché il coordinatore di Forza Italia, che è un deputato che avevo messo in lista io, in questo anno non l'ho mai sentito, quindi non lo so direttamente. Leggo il giornale. Ma scusi, ma lei in questo momento, se dovesse andare a votare, chi vota? Prima bisognerà sapere se c'è un candidato. Non voto quello della sinistra, spero che venga fuori un candidato equilibrato, con la capacità di vincere e con una proposta che ci convinca. Non mi sembra che lei ha molta fiducia in questa cosa qua. Vabbè, senta, qual è il suo candidato per la presidenza della Repubblica ideale? Io dovessi scegliere. Chi fa il tipo? Chi vogliamo bruciare? Bruciamo uno che intanto non lo candidano, quindi secondo me andrei fuori, quindi vado controcorrente anche qua, andrei fuori dalla logica degli uomini con già esperienza politica, perché credo che dovremmo dare un segnale forte di cambiamento, ma fortissimo, che dovremmo uscire dalla logica che oggi è contestata per ricucire, ma persona però che abbia anche un'esperienza di cos'è il nostro paese. Ecco, io dovessi sceglierne uno, sceglierei Paolo Mieli. Paolo Mieli. Paolo Mieli, presidente, bruciatissimo adesso, non è mai stato in corsa, per carità. Però è Paolo Mieli, presidente della Repubblica, una cosa pazzesca. Avrebbe l'autorevolezza, ha la conoscenza del nostro paese, dei pregi e dei difetti, pare che abbia l'equilibrio necessario. Ma questa è una battuta che fa uno che intanto io non voto che poi lo dico su una persona, spero di non fargli un danno a Paolo Mieli, ma lo riterrei in questo momento una persona votabile da tutti e secondo me nel guaio, nel casino nel quale siamo, con tristezze ancora peggiori che ho paura arriveranno nella primavera, se votassimo un Presidente della Repubblica alla prima sarebbe votazione, sarebbe un interesse di tutti. Grazie, a presto, arrivederci. Grazie. A lei, arrivederci, ciao, ciao. Saluti, saluti. Ti prego. Ti prego. Allora ragazzi, qui siamo di fronte al Papa, a un'altra frase del Papa che farà discutere, popolo della zanzara, popolo della radio, voi che siete collegati dai taxi, dalle macchine, dai camion, da casa, mentre state facendo l'amore, mentre state trombando, perché molti di quelli che ci ascoltano, però alcuni di quelli che ci ascoltano mi dicono ogni tanto sento la zanzara mentre trombo. È una statistica questa che hai sviluppato? È una statistica che ho fatto, certo, assolutamente. E tu pensi ad esempio che il nostro editore, che in questo momento è in macchina, è minimamente interessato assolutamente, a questa statistica? Perché bisognerebbe sapere, a proposito, caro Parenzo, parlavamo prima del preservativo, no? Allora, devo renderti edotto di una nuova ricerca, le ricerche di Cruciani, le grandi inchieste della zanzara. Lo sperma fa bene alla pelle delle donne. Secondo alcuni medici americani è possibile avere un viso teso e luminoso senza spendere neppure un centesimo. Il tutto grazie a un buon fidanzato. Hai capito? Ma lo studio non si ferma alla cosmetica. No, figuriamoci. C'è chi assicura che berne un po' ogni giorno apporti risultati ottimi anche relativamente al vigore quotidiano, alla prevenzione di fastidiose gengiviti e alla fertilità femminile. Cosa che non vale per gli uomini. Quanto spendono le donne per avere una pelle sana, bella, liscia e ben tesa? Mediamente 330 euro all'anno, di cui gran parte dedicati alla bellezza del viso, che è sempre in bella mostra ad amici e colleghi di lavoro o di studio. Beh, secondo alcuni medici americani è possibile avere un viso teso e luminoso senza spendere neppure un centesimo. Il tutto grazie a un buon fidanzato. Da tempo si vociferava di una presunta funzione lenitiva, ammorbidente e nutriente dello sperma, almeno da quando si è cominciato a leggere sulle etichette dei più comuni burro cacao la presenza di una sorta di sostanza che adesso non vi dico come si chiama, che è stato preso per sperma di squalo prima, di maiale poi, ma che invece si è rivelato essere l'estratto di una pianta africana. Amici miei, siamo al top ragazzi, assoluto. Somma. Pino dalla provincia di Messina. Comunque no, stavo dicendo di Papa Francesco, per passare a cose più come dire, più, non dico terrene, ma cose più celesti. I cattolici non siano conigli. La famiglia ideale ha tre figli. La paternità deve essere responsabile. Adesso però questo Papa a me mi ha veramente stancato. Adesso vuole dettare le sue regole su quanti figli dobbiamo avere. Cioè no, il cattolico... Ma leggila tutta prima di commentarla. Leggila un attimo tutta. No, il fatto che dica che a quelli di CL, soprattutto a quelli con, non so come si chiamano, alcuni che ho conosciuto che hanno 6-7 figli proprio perché sembra, no, come si chiama, neo-ecumenali, come si chiama? Neo-catecumenali, non so, ma sono tutte follie, neo-catecumenali. Inimichiamoci pure quelle, dai. Questi neo-catecumenali sono gente che fa 7, 8, 10, 12 figli. Ma che gente. Ah no, va benissimo, perché ognuno fa quello che vuole. No, non me ne frega, ma uno è malato se fa 10 figli, sei malato se fai 10 figli, cazzo. Ma tu ti rendi conto? In dai, su. Cazzo, no, perché poi... in questo caso le provvidenze di Dio. No, capito. Però se uno fa 10 figli non è non mi direi che è normale. Sei normale se fai 10 figli. Dimmi sono che sei amico normale. Di Gigi Amicone di cui non condivido nulla. Non sei, se fai 10 figli nulla. Non sei normale. Non condivido nulla normale. Di Gigi Amicone, nulla, ma è un caro amico. Sì, quanti figli ha? Non c'ha 10 figli, 7 figli. Vabbè, credo. 7, vabbè, comunque sempre allora, una cosa strana. Allora io non capisco perché . Tu devi mettere, cioè, chi ti frega? Ma cosa ma ti Ma non frega? È normale, amico mio, dai, su. Per te, guarda che bel ambiente tuo, no, ma dai, su, ma comunque va bene. Ma sarà un bel ambiente andare a leccare? Basta adesso, oggi non ce la faccio più. Allora, ma sarà andare Papa a leccare Francesco i piedi detto, delle donne, mettersi a fare, ma dai, fammi Papa parlare, Francesco ha detto una cosa, i cattolici non devono essere conigli, non è da cattolico essere conigli e fare i figli. La famiglia ideale ha 3 figli. Questo è strano. Beh, questa cosa che la famiglia ideale ha 3 figli. No, ma anche perché mi sembra Davide Romano, conosci Davide sì, Romano? Come no, amico Romano, certo. Davide Romano, giustamente chi ci ascolta, cioè Davide Romano, grande intellettuale, sì, mi segnala, dice che il Papa è ha 5 fratelli. Sì. Ed è terzo genito. Dunque, anche il Romano, giustamente, mi fa notare. Parla dice, anche a se stesso, parla no, anche alla sua famiglia. No, evidentemente ha scazzato con gli ultimi due, mi fa notare il signor Davide Romano. È interessante questo, però, Dai, su, ma è assurdo, dai. E mi segnala sempre Davide Romano che stai attaccando Del Rio, tu. Attacchi Del Rio. È vero che ha 7 figli, no, 7, 9, quanti ne ha? 9 figli. Stai attaccando Del Rio, quindi Cruciani contro ragazzi, il governo. Ma è uno che fa 10 figli. Ancora, non mi dirai che è una cosa normale, dai, su. Ma perché non è? Perché non è normale fare 10 figli, dai. Nessuno mi convincerà che è normale fare 10 figli. Guarda, poi per carità, sei mica, normale tu. Per carità, va benissimo. Perché è normale ma che un senatore si vesta da Elvis? Ma uno, no, ma non puoi passare un attimo, tempo a fare figli. Ma dico, poi, come diavolo fai a fare 10 figli? Ma tu sei la stessa persona che però mettiamo le cose in ordine. Mettiamo in ordine, sei la stessa persona. Normale, dai, che su. Giudica normale che uno si vesta, un senatore si vesta da Elvis e poi la normale sono io perché lo critico. Primo, sei uno che lecca i piedi e reputa normale che sì, vengano leccati sì. i piedi di una o più donne al contempo, nello stesso momento, e reputi normale. E poi critichi uno che decide di fare 10 figli. Guarda che incredibile. Al mondo, guarda che strano. Pino dalla provincia di Messina, dai, riprendiamo. Pronto? Sì, vai. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Vai, dimmi. Niente, ciao. Io mi sono un pochino calmato perché prima ascoltando quel signore che parlava contro il Presidente della Repubblica emerito oggi sì. Mi sono indignato veramente, è assurdo che ci siano persone che possano... Vabbè, Donato da Varese, dai, su. Non lo so da dov'è questo Donato, ma sicuramente, come non ha detto il buon Parenzo, sarà che molto probabilmente avrà cambiato cura, molto probabilmente avrà fatto qualche cosa. Sì. Io da italiano dico grazie al nostro Presidente della Repubblica. Bravo. E volevo ricordare semplicemente una cosa, che quando 2 anni fa lui voleva andare a casa, voleva riposarsi, è stato pregato da tutti questi signori che oggi praticamente... e gli dicono bravo, e quindi credo che Napolitano, se poi prende più di Obama, non è che abbia deciso lui quello che deve prendere, è stato deciso da una legge che qualcuno avrà fatto. Quindi beh, ci sono diciamo altre che cose... lui ha contribuito fattivamente, essendo stato in Parlamento, in politica da 50 anni, a costruire tutte queste leggi, a costruire a decidere quanto deve guadagnare un presidente. Non è che uno si può chiamare fuori, non d'accordo, diciamo... io sono d'accordo col fatto che lui possa avere anche quando uno finisce di fare la politica deve scomparire senza che noi gli paghiamo nulla. Questo vale in tutti i paesi, non si capisce perché non debba valere in Italia. Questo è il punto fondamentale. Perfettamente dai, d'accordo su. Con te, spero che ci sia qualcuno che possa fare in Italia, questo. Però... tra prebende, vantaggi che uno ha quando finisce di fare parlamentare o presidente della Repubblica, indennità, pensioni, sono queste le cose che non funzionano. Pensioni che sono camuffate da vitalizi. Ma sindacalista dai, che fa 20 anni di lavoro e poi ne prende più del politico. Ma quello è un caso, per carità, uno scandalo. Dire, certo. Stiamo parlando di un contesto. Qua l'assalto alla dirigenza mi pare che ce l'hanno fatta tutti, quindi non possiamo scandalizzarci oggi. Ma non è Vabbè, corretto parlare. Pino, grazie. Gianluigi Rimini, Gianluigi da Rimini, ciao. Dimmi, Gianluigi, vai. Niente, Giovanni Campobasso. Bello, dopo tanto tempo. È arrivato da Campobasso, Giovanni da Campobasso. Sono sempre io, ignorante. Tempo o tempo? Dimmi, cretino. Ignorantone, tu non capisci un cazzo. Ma sei un Come si fa? Ma ascolta, taci. Dimmi, poveraccio, sei un poveraccio. Ma poveraccio sei tu di te. Ma sei un cretino, sei Giovanni. Ma non ti vergogni. La tabanara è più intelligente di te. Ma non ti vergogno o no? Ti vergogno o no? No, ma come si fa a scopare col preservativo? Allora i figli quando vengono? Ma che ci... ecco, è arrivato il genio! È arrivato... Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. Ma tu ti avrei... ma una legnata ti darei, questo è il contatto, una bastonata in testa. Ecco, come se non lo senti il contatto poi dopo una bastonata in testa? Io ve l'ho detto l'ultima volta, voi due vi dovete fare le punture al cervello. Per ragionamento del cervello cranico. Solo per capire un secondo, caro. Lei ma che cazzo di caro, tu ignorantone, tu a me caro non me lo dici, comunista di merda. Scusi. Io sono fascista, tu caro a me non me lo dici. Pure fascista, caro, io sono certo. Fascista e me ne vanto. Ecco. Io quando sta arrivando? Quando è arrivato l'età per votare, ho votato sempre Democrazia Cristiana. Chi se ne frega, ma nel mio profondo del cuore, maledetto. Se doveva essere un comunista, mai e poi mai. Ma che c'entra? No, vorrei ricostruire la frase di Giovanni da Campobasso. Io sono, ha detto prima, sono fascista e me ne vanto. Poi, sì. Da quando voto Democrazia Cristiana? Ecco, perché dentro di me non voto mai comunista. Vuoi venire a portare la serenata a casa mia? Divento fascista. Ma che c'entra? Capisci? La serenata? Non ho capito. Scusa, la serenata capisco a casa mia. Che sono problemi molto seri. Che lingua è? È lingua italiana, che cazzo, non lo vedi? No, che ma fammi capire bene, torniamo indietro, facciamo un riavvolgiamo allora, un attimo. Prima di tutto bisogna scopare senza preservativo, ecco, appunto, per questo, il contatto. Questo volevo chiedere, dai. Questo è quello che ti ha mosso. Siccome che tu ti gnocca, non ne capisci un cazzo. Sì, certo, dici che bisogna trombare a pelle, giusto? Devi sentire certo. Il conto, ma tu quanti anni hai, Giovanni, scusa, per curiosità, quanti anni hai? Ma che cazzo c'è? Io ho quasi 60 anni. Quasi 60 anni, vabbè, comunque sei ancora in piena attività. Ti farei aiutare sicuramente da qualche pillolina, da qualche sostanza, da qualche cosa, sicuro al 100%. Io adesso mi adeguo all'andamento della vita. Ti adegui e dunque pigli la pillolina. Ma all'età, alla mia età di 20, 30 anni, 25, roba varia, fino a 40, 45. Sì. Io non ho mai usato il preservativo in vita mia. Vabbè, ma che ti sei preso? No, forza naturale. No, ma quello ho capito, che ti sei preso, nel senso qualche malattia, qualche infezione. Ma che cazzo di malattia? Tu bisogna andare, al dal ginecologo e farti spiegare com'è composta la natura della donna. Hai capito? Perché se tu sei un ignorante che non capisci un cazzo della natura della donna, e vuoi scopare 30 giorni al mese, sì, è logico che ti prendi le malattie. Cioè, in che senso? Spiegami, professore, maestro. Dimmi. Tu vai dal ginecologo, sì, e te lo fai spiegare, perché io non è che ti devo spiegare io della medicina del corpo umano, come è fatto, come è composto e come è bene. Io ti dico che si può scopare, si deve scopare senza preservativo. Senza. Si deve, senza. Addirittura, si deve. Dall'alto della tua cattedra, io te lo metterei in testa il preservativo innanzitutto. Ti avvolgerei quella testa e ti metterei la testa proprio messa così, come ti farei lo spot per il preservativo con la tua testa. Con la tua testa prenderei la tua testa. Tu non capisci un cazzo di donna. Ma perché io sto parlando con te? Perché sto parlando con te invece di parlare con me? Anche interessante. Perché sono stato io che ho telefonato te. Sì, lo so, perché sto continuando a parlare con te, Giovanni da Campobasso. Che sei un emerito imbecille, sei un cretino. C'è un motivo. No, ma perché sei un cretino, questo è il punto. Perché sei un cretino. Guarda, cretino sarebbe una parola offensiva, ma io non mi offendo con te. No, non ti offendi, eh. No, con te no. Perché? Perché c'è una simpatia nel parlare con te di farti capire le cose. Giovanni, ma tu che fai nella vita? Spiegami. Ma che c'entra? Cioè, che cosa vuoi? Che sono curioso, che fai nella vita? Parenzo, secondo te che fa Giovanni? Io non ho mai lavorato in vita mia, mai. Non ha mai lavorato in vita tua? No. Ma farai un disoccupato dalla nascita. Ma farai un mestiere o no? Non hai mai lavorato? E come campi, scusa, come campi? Faccio il contadino, dai. Il contadino? Vabbè, sì. Questo beh. Vabbè, questo va bene. Lavoro bellissimo. No, vabbè, ma magari non è il problema il lavoro che fa. L'agricoltore più che il contadino. Ma non è il problema il lavoro che fa, anzi, l'agricoltore è un lavoro meraviglioso, è la testa che ha il problema, non il lavoro che fa. La mia testa, a parlare con te, guarda, a parlare con te... Ah. È fuori discussione. Scusa, come fa? Io ho telefonato per parlare con Giuseppe Cruciani. Ma come fai? Come un stimatore importante. Come fai a sedurre una donna tu, Giovanni? Bello. Dimmi, come fai a conquistare una donna, amico mio? Ci vuole armonia. In che senso, scusa? Ci vuole armonia, ci vuole tutto un gioco. È tutto un gioco, eh? È tutto un gioco, come tu fai a parlare col microfono a Radio 24. Cioè, qual è la tua tecnica nel conquistare, eccetera? E poi sei sposato? Basta che non gli chiede che vuoi far l'amore. In che senso, scusa? Tu gli puoi dire, a una donna si dice tutto. Sì. Si dicono anche delle bugie, delle cose inesistenti, delle cose per arrivare a portartela a letto. Ah, si dice tutto. Si dice tutto. Cioè, bisogna riempirle... Cose vere e cose non vere. Bisogna riempirle di cazzate. Ecco, bravo. Giovanni. Le cazzate però bisogna anche fargli credere che le cazzate sono cazzate positive. Le lezioni di Giovanni da Campobasso. Questo volevi sentire, eh? Ciao, amico mio. Ma come si fa a scopare con preservativo? Allora i figli quando vengono? Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. Ignorante. Giampiero Mughini contro tutti. Ieri sera alla gabbia si scontra con il grillino Martinelli, suo amato. Io amato me lo ricordo perché fu l'uomo del prelievo forzoso nel 92. Sì. Per cui questo mi basta. Ma stai buono, no, ma stai buonissimo. Buono. Per chi è sempre in rosso come me, guardi, non è una bella cosa, le assicuro. Ma stai buono, l'Italia era al fallimento. Certo. Stai buono. Infatti si vede come siamo andati con Amato. Ma infatti sempre certo, da, se c'eri da 30 anni. Se c'eri tu, non lo so. Sai dove saremmo. Ma chi lo sa, ma che ne sa lei? Mamma mia. Ma che ne sa lei? Mughini, no, mi scusi, lei è meglio. Aspetta. Che parli di partite di calcio e non di politica, perché sette anni fa diceva stronzate su Grillo e non ha ancora smesso. Tra poco, ma tolga gli occhiali e faccia meglio buffone. Sia saggio. Idiota. Faccia meno il buffone. Dai. Allora, si può parlare con un tale cretino, Gianluca. Per piacere, dai. Allora, non ho capito la cosa, sia saggio perché potrei essere suo figlio di Martinelli. No, io sto sempre, più fai sentire questo, più io sto con Mughini, ma tutta la vita. No, sempre, suo amato no, non so. Nella difesa suo amato, di Giuliano Amato. No, io non voglio Giuliano Amato presidente della Repubblica, lo dico subito. Buono, ma assolutamente, ma non voglio Giuliano Amato. Ha salvato mi questo dispiace, paese io sono d'accordo con default, Mughini. Vero, alto ma lascia che, perdere, dai. Ma quale? Prima lo affossano col debito pubblico e poi lo salvano col prelievo forzoso. Ma che dici? Ricordi quanto cosa valeva dici? La lira nel 92, quanto niente. La pizza de fango del Camerun, come dai, diceva Guzzanti, su. Valeva nel 92. Non ci fossero state quelle politiche ma austere. Dai. E chi l'ha portata lì? Chi l'ha portata di Ciampi lì? Poi? Chi l'ha portata a quel livello? Vabbè, c'era un altro che è riuscito. Dai, su. Grazie, bisogna dire. Giuliano grazie Amato. Dai, grazie su. Ciampi, dai, grazie ragazzi, Prodi. Parliamo, dai. Amato, Ciampi, Prodi hanno salvato questo paese. Questa è la storia. Questa è la storia, amico mio. La storia. Sia saggio che potrei essere suo figlio io. Per piacere, dai, per piacere. Allora, andiamo a Terni da Massimiliano, dai. Pronto? Dimmi Massimiliano, ciao, scusa, sono un po' emozionato, ma sei dormito. Dai, vai. Vabbè, se no, te volevo dire neocatecumeni, no? Neocatecumeni, sì. Allora, ti spiego perché facciamo tanti figli. Ah, tu sei neocatecumenale. Sì. Sì. Perché fate tanti figli, allora, come i conigli? Adesso il Papa vi ha bastonato, vi ha picchiato. Mi fate parlare, si posso parlare. No, certo, i cattolici facciano figli, ma non come coniglia, è rivolto anche a voi, eh? Giusto, no, per carità, giustissimo, anche noi siamo cattolici, ma questa cosa parte dagli anni 60 quando Paolo VI ha fatto un incirio, si vabbè, chiamava adesso, però non è che potete, possiamo andare a Paolo VI. Spiego proprio in due parole. Dimmi. Diceva apertura alla vita, cioè rapporti matrimoniali aperti. Questo non significa fare figli come conigli, farli con una paternità responsabile. Ma cioè, che vuol dire, scusa? Perché figli, ne fate tanti di figli? Perché fate tanti? Tu quanti figli hai? Allora, io a parte io purtroppo non mi sono venuti figli, quindi ho fatti. Vabbè, allora che c'entra? Se non ti sono venuti, però sei lo stesso. Ne ho adottati due, ma se potevo ne adottavo anche di più. Purtroppo sai che la traduzione internazionale. Ma perché fate tutti sti figli neocatecumenali? Perché semplicemente perché siamo aperti alla vita. Perché Dio siete aperti alla vita. Ma esistono i preservativi, amico mio? No, ma il preservativo non è tutta un'altra cosa. Fa l'amore con il preservativo senza preservativo. Ma a parte quello, non è nulla di più. Perché sia tutta un'altra cosa, non c'è dubbio. Ho capito, però uno a un certo punto, no, per evitare di fare figli, ci sono delle cose che è preservativo. Ma questo è religioso. Le famiglie, allora, ascolta, io sto nella scuola. Le famiglie dei neocatecumeni che hanno tanti figli, I figli magari ci avranno qualcosa di meno economicamente, per carità, però non gli manca niente. E oggi in Italia il problema nostro è proprio questo, che non facciamo più figli. I figli di piazza comunitari, che spesso sono figli di 3-4 fratelli, sono tutti figli che hanno una marcia in più. Io lo vedo nella scuola. Vabbè, adesso non facciamo paragoni, italiani. Quelli che hanno una marcia in più, quelli che hanno una marcia in meno. No, ma perché? Perché i figli unici ovviamente sono magari sono più viziati, hanno più vabbè, cose Massimiliano, magari. Ho capito. Isa da Milano, ciao Isa. Buonasera signor Cruciani, dimmi, buonasera. Senta, no, io le volevo dire, mi allacciavo all'inizio quando ho sentito la trasmissione che si parlava di prostituzione. Vai, parla Isa, dimmi. Niente, volevo solamente dire, io sono anni che dico sempre la stessa cosa. Ma lei è una prostituta? No, che ne so, magari ci ha chiamato una prostituta, anzi vorrei che ci chiamassero un sacco di prostitute in questa trasmissione, purtroppo non chiamano perché lavorano, no, al contrario di altre persone che non lavorano e ci chiamano, oppure lavorano meno, oppure stanno in macchina, le prostitute lavorano alacremente, ecco, alacremente. No, io questo volevo dire, signor Cruciani, io dico, ma santo Dio d'amore, santo cielo, ma perché non si riaprono queste benedette case chiuse? A noi ce lo dice. E si regolamenta tutto. Io sono stata a Berlino e c'è un palazzo elegantissimo dove dentro ci sta un'azienda. Le ragazze scelgono loro di fare questo mestiere, non sono reclutate, alcune, forzate. Sì. No, quelle che vanno là la maggior parte scelgono. E poi c'è un'eleganza. Me l'hanno detto, poi l'ho letto sul giornale lì, niente meno, c'hanno gli accappatoi per gli uomini con le cifre, le scarpette, il bagno, è come un albergo a 4 stelle. Lo so, ma dico, ma ci sono stato, amica mia, ma però non lo pensano pure qui. Salvini ha ragione, io sono d'accordo con lui, lo Stato incasserebbe anche le tasse. Le ragazze passerebbero. Vabbè, Isa, però lei sta esprimendo dei concetti basici che sono interessanti, fondamentali. Cioè, sta dicendo che bisogna regolare una volta per tutte la prostituzione. Che lo dica una donna come lei, che non credo che sia giovanissima, non per farle un torto. No, io ho più di 60 anni. Più di 60 anni, mi sembra che mi si apra il cuore, insomma, con questa cosa. Che mi si apre il cuore. Le do una signora Isa da Milano, con questa voce straordinaria, calma e pacata, grazie. Sarà d'accordo anche con me quando dico che il problema è lo sfruttamento. Oddio, che lo coglioni, mamma. Ecco, cioè quelle donne che vengono buttate non in strada, minacciate, il corpo loro martoriato con bravo, i mozziconi accesi di sigaretta perché si devono prostituire. Chi è a favore di questa roba? Chi è a favore di questa roba? Ma chi è a favore di questa roba? Voi che difendete la prostituzione di strada siete a favore. Io la prostituzione per strada, io difendo la prostituzione generale, legalizzata, punto. Anche di ma oggi non c'è, io più volte mi sono preso le contumelie degli ascoltatori da te a Izzà perché ho sostenuto semplicemente una cosa banale, ma che la ottima Isa sostiene con me, mi e fa che piacere, che quelle donne messe in strada, ma chi dice stato il contrario? Di schiavitù, ma tu veramente sei impazzito? Vanno mutati i clienti quando ma ci vanno, questo io ho sempre mutati, sostenuto. Ma che ne sanno i clienti se uno è schiavitù? Poi c'è oppure una cosa, vedi che la signora Isa è d'accordo con ma me? Scusate se vi interrompo. No, non ha detto che devono essere mutati i clienti, Isa. Sì, scusate se vi interrompo. Non ha affatto detto questo. Poi c'è un'altra cosa più grave. Qual è la cosa grave? Ho letto, ho sentito, perché io mi informo molto, sento molto radio, televisione, allora? E che molte volte queste ragazze, quando vanno i clienti a chiedere, dice: senti, se lo facciamo senza la protezione, io ti pago di più. Questo comporta. Vabbè, anche questi sono i pazzi, i clienti malati, esatto, di mente. Esatto. E comporta pure una dilagazione di infezioni, malattie, HIV, certo, epatite C. Ma insomma, ma dico, ma perché non si regolamenta tutto? le ragazze passano la visita medica, vanno i clienti là, la ragazza è sana, il cliente sa che non si piglia nessuna infezione, paga quel tot, la ragazza si prende uno stipendio, poi paga, diciamo, le tasse. Va bene. E tutto viene grazie, messo a posto. Grazie, grazie Isa, ciao, ciao, ciao. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Antinoro? Sì? Angelo, ciao. Buonasera. La Zanzara, ciao, come stai? Ciao. Caro bene, tutto a posto, bene, grazie. Tutto a posto? Sì, sì, sì, ma grande, non intendo intervenire in puntata, ti ringrazio, mi hanno chiamato oggi pomeriggio, avevo già chiesto. No, ma non sei, io dico solo no, una parola, Parenzo, due parole, solo due parole devo dire. Grande Antinoro, grazie. Io no, voglio dire soltanto mille. Tre, scusami. No, scusami Antinoro, grazie, ti posso dire una grande cosa? Grande Antinoro, adesso non vogliamo... grazie grande Antinoro. Vabbè. Queste tre parole devono rimanere nella storia della radio italiana, grazie. Vabbè, grande, ma va benissimo. Antinoro, io dico vabbè, l'altro personaggio oscurantista, reazionario, invece, che è quello che sta a Milano dall'altra parte ma del microfono, che, non è affatto così. Che corrisponde al nome di Cruciani. No, ma non è affatto così. La allora, pensa diversamente da me. Io dico scusami, solo, Angelo. Angelo, Antinoro. Allora, scusami. Aspetta un secondo. No, aspetta, fermo un secondo. Ferma, mica sei il Papa. Antinoro. Mica stai sei il Papa. Solo. Vabbè, ma ragazzi, ma che. Cioè... Ma perché chiude Antinoro? Dico solo una cosa a questo qua, È strano che abbia chiuso, ma però, che ne scusa, so, non vuole parlare. Ma chi se ne frega, i genitori, gli avvocati, ma sono cazzi loro. Il problema fondamentale è questo, che ripeto, se tu vai a un convegno organizzato da varie associazioni che la pensano in un certo modo sulla famiglia, sui omosessuali, e fai un intervento non previsto, cioè sei sostanzialmente un intruso. Va bene, ti lasciano parlare per qualche minuto, dopodiché se arrivano dei signori e ti portano via, non è una cosa scandalosa. Sì, c'è qualcuno che l'ha insultato, per carità. Poi, se tu, ebreo, vai in un convegno organizzato da Ku Klux Klan e cerchi di intervenire, dopo un po' ci sono dei signori col cappuccio bianco che ti prendono e ti portano via. Sì, non c'è dubbio. E credo che non solo ti insultano, ti dicono qualcosa di più. Sì, no, non c'è dubbio. Magari la cosa ti attendono con la croce infogata. La cosa è un po' diversa. Qui si tratta di un convegno. Dai. Organizzato col simbolo della regione Lombardia. Vabbè, ma ho capito, ma non c'è il diritto a entrare, si parla di amore, ma non c'è il diritto di partecipare di a un convegno quando non sei invitato, in cui dovrebbe regnare la Pax Cristiana. Vabbè. E invece sono volati gli insulti nei confronti d'accordo. Di un ragazzo che voleva porre una questione. Questa è la unica differenza, diciamo, sostanziale. Vabbè. Non è così come dice Parenzo. Non c'è alcun obbligo da parte del convegno di ospitare interventi non previsti. Uno fa un convegno con una scaletta, con degli interventi, è a casa propria. Ma bastava non insultarlo, però. Vabbè, ma quello, gli insulti dopo, ognuno si assume la responsabilità. Se la russa ha detto culattone, si assume la responsabilità di aver detto culattone. E il pubblico si è spazientito perché questo qua voleva fare un intervento non previsto. Succede. E se tu ti vuoi introdurre in qualcosa in cui non sei sei previsto. Può succedere che ti insultano, che ti attaccano. Nessuno gli ha torto un capello, ha potuto dire quello che voleva. Nessuno, ecco, le sentinelle in piedi ogni tanto le picchiano. Alcuni vengono aggrediti. Questo tizio non è stato toccato da nessuno, ha potuto dire quello che voleva. A un certo punto sono arrivati quattro signori, l'hanno preso e l'hanno portato fuori. Non mi sembra una cosa così scandalosa. Poi, per carità, ha fatto un gesto anche interessante dal punto di vista della provocazione. Infatti, doveva uscire e doveva fare tiè. Adesso parleranno tutti di me. Da adesso in poi parleranno tutti di me e parleranno meno di questo convegno. Poi è arrivato pure il prete pedofilo che si è parlato di altro. Gennaro Caserta, vai. Oi, buonasera Peppe. Vai Gennaro, dimmi. Senti, ti volevo dire una cosa, ritornando al discorso del preservativo, no? Sì, è certo che un animale da sesso come te, no? Che fa sesso pure con le galline, è normale che deve mettersi il preservativo. Ma perché non è così, scusa, tu fai sesso con le galline pure. Sì, cioè, tu sei ma un animale, anche, parli solo anche di con sesso, i cosi, guarda, anche con gli uccellini piccoli lo faccio. Parenzo, a te ti posso dire una cosa, prima di finire il suo discorso. Dimmi, tu hai detto cara, che dimmi. Tre persone amato, Prodi e Ciampi, hanno salvato questo paese. Preciso, Parenzo, preciso. Parenzo, ma perché non muri? Tu devi preciso. Morire, Parenzo. Io ti ringrazio molto per il messaggio irenico morire. Che stai mandando. Ma perché grazie, dovrebbe cara. Morire, scusa? Grazie, so, perché dice queste cose. Prodi ci ha saluti ci ha tutti a casa sua. E pezzenti a tutti quanti. Tanti auguri anche a casa sua uguale. Tanti auguri a casa. Auguri a casa sua, amico mio. Sempre un giorno dopo di te, caro. Sempre un giorno dopo di te, ma perché tu non lo usi il preservativo, Gennaro, non lo usi? Ma scusa, perché io nel senso lo considero espressione forte dell'amore, no? Lo faccio con sì. la persona allora? Che amo. Allora? E quindi non è che lo vado a fare a destra e a manca con le galline, con i maiali, come magari fai tu come sì. sei tu, perché parli sempre. Tu secondo me fai il sesso con tutti quanti. È normale che devi. Poligamia a destra, perché il sesso è stato creato da madre natura come forma di espressione per caricare l'amore, insomma, per rappresentare e questa tu cosa così. Mi vuoi coglionare, cioè mi stai dicendo che tu sei monogamo? Non sono monogamo, però mi è capitato, però sinceramente mi è capitato, però sinceramente Perché non è così, scusa, ma fare sesso con tutti quanti è certo, uno che è sposato magari va deve andare a fare lo dovresti fare perché ami quella persona, la conosci, la frequenti, cioè non c'hai bisogno né di ricorrere a quelli che sono preservati, perché giustamente, come diceva il radioascoltatore di prima, no? Il tatto, la concentrazione di certe cose. E poi ci sono alcuni che usano pure il preservativo per ritardare, perché fanno il sesso troppo sotto una forma animale. Ecco, senti il professore qua, senti Gennaro da Caserta. Ma non è così, né Peppe, è così. Ma perché volete cambiare le cose? Valerio da Imperia, ma che ne so, anche non l'ho mai conosciuto. Io non lo so. Valerio da Imperia, un amico evidentemente. Valerio, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. No, niente, che non si sottopone, che alle volte si bisogna usarlo perché si è obbligati a usarlo per delle patologie, purtroppo magari non se ne va neanche a cercare, poi se le trova. Beh, certo. E il costo costano un bordello. Negli anni 80 ce li regalavano anche i centri, adesso costano dappertutto. Costano troppo, è vero, costano troppo. Sì, faremo una grande campagna per la distribuzione gratuita da parte a carico dello Stato e anche per l'abbassamento del prezzo con gli amici produttori. Gli amici produttori li fanno pagare troppo. Va bene, Tommaso da Vicenza, Decan da Vicenza, ancora tutti da Vicenza, caro Parenzo. Domani 18:30. Va bene.